drappeggiante acefala incombe bianca l'arcana pietra, come nera l'arcigna, sagoma damiata ammutolisce di torba le nubi che d'intorno lo ostacolano. Annotta sull'amata il sarcofago manto che stende pietoso un indefesso allotta, che allampa nella lotta continua che ci divide, testa e busto, testo e contesto, tra punta di stelle versus pezzato di mucca, allotta balbetto, allotta, chiesi e chiedo, balba e mesta, Aracne e Atena. Diramano sotto pelle come urticanti sfoghi d'acne le lacrime dell'amata piantonate nel petto, picchiettano in me tosche come schegge d'amianto. Liscio come cefalo il canopo etrusco s'imbottisce di visceri neri come la sprigna susina di Monte Pulciano che stucca, s'appiccica in viva pietra fetida, opacata in morto bucchero. Nero l'amiata urna incenerito soverchia, la strapotente rocca di vino di tacco, o quel che fu ricetto all'invitto eresiarca di Arcidosso. Così l'anima pesa sul corpo come un coperchio. Mute nubi trascorrono, sorvolando ignare il manto che su di me stende pietoso morte, l'unico mio figlio maschio.